Il Signore disse ad Aronne: tu, i tuoi figli e la tua casa paterna con te porterete la colpa commessa nel santuario. Tu e i tuoi figli porterete la colpa commessa nell'esercizio del vostro sacerdozio. Fa avvicinare con te anche i tuoi fratelli, la tribù di Levi, ramo di tuo padre. Si uniscano a te e ti servano quando tu e i tuoi figli con te sarete davanti alla tenda della testimonianza. Manterranno il tuo servizio e il servizio di tutta la tenda, ma non si avvicinino agli oggetti del santuario e all'altare, e non muoiano né essi né voi. Si uniranno a te e manterranno il servizio della tenda del convegno per tutto il lavoro della tenda. L'estraneo non si avvicini a voi. Manterrete il servizio del santuario, il servizio dell'altare, e non ci sarà più sdegno per i figli di Israele. Ecco, io ho preso i vostri fratelli, i Leviti, dal mezzo dei figli di Israele. Sono un dono per voi, donati al Signore, per fare il lavoro della tenda del convegno. Tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio per tutto quello che riguarda l'altare e l'abitazione del velo, e compirete il ministero. Io vi do il sacerdozio come dono. L'estraneo che si avvicinerà sarà messo a morte. Il Signore disse ad Aronne: io, ecco, ti ho dato il diritto su quello che si eleva per me, cioè tutte le cose sante offerte dai figli di Israele. Le ho date a te e ai tuoi figli per diritto della tua unzione, per legge perenne. Questo sarà tuo tra le cose santissime destinate al fuoco. Tutte le loro offerte, secondo tutti i loro doni, i loro sacrifici per il peccato, i loro sacrifici di riparazione che mi riporteranno, cose santissime sono per te e i tuoi figli. Le mangerete nel luogo più santo, ne mangerà ogni maschio, sarà cosa santa per te. Questo ancora sarà per te un prelievo sui loro doni, secondo tutte le cose elevate dei figli di Israele. Le ho date a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te, in decreto perenne, qualsiasi puro nella tua casa ne mangerà. Tutto il meglio dell'olio, del mosto e del frumento, le loro primizie che hanno dato al Signore, le darò a te. Le primizie di tutto ciò che è nelle loro terre e che porteranno al Signore saranno tue. Ogni puro nella tua casa le mangerà. Ogni cosa votata allo sterminio in Israele sarà tua. Qualunque primogenito di ogni essere vivente offerto al Signore, uomo o bestia, sarà tuo. Però farai riscattare il primogenito dell'uomo e il primogenito dell'animale impuro. Riceverai il loro riscatto da un mese di età, secondo la tua stima in danaro, di 5 sicli del siclo del santuario, che è di 20 gera. Ma non riscatterai il primogenito della vacca, o il primogenito della pecora, o il primogenito della capra. Sono santi. Spanderai il loro sangue sull'altare e farai fumare il loro grasso, sacrificio di fuoco in odore gradevole al Signore. La loro carne sarà per te, come per te sarà il petto dell'elevazione e la coscia destra. Ho dato a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te, in decreto perenne, tutti i prelievi delle cose sante che i figli di Israele prelevano per il Signore. È un'alleanza inviolabile davanti al Signore per te e il tuo seme con te. Il Signore disse ad Aronne: non erediterai nella loro terra e non avrai parte in mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua eredità in mezzo ai figli di Israele. Ai figli di Levi, ecco, ho dato tutte le decime in Israele come eredità in cambio del lavoro che fanno, il lavoro della tenda del convegno. Così i figli di Israele non si avvicineranno più alla tenda del convegno per assumersi un peccato che porta alla morte. Sarà Levi a fare il lavoro della tenda del convegno. Egli porterà il loro peccato. È un decreto perenne per le vostre generazioni, ma non erediteranno in mezzo ai figli di Israele, perché la decima dei figli di Israele, che prelevano per il Signore, l'ho data ai Leviti in eredità. Per questo ho detto di loro, non erediteranno in mezzo ai figli di Israele. Il Signore disse a Mosè, parlerai ai Leviti e dirai a loro, quando prenderete dai figli di Israele la decima che vi ho dato da parte loro in vostra eredità, farete di quella un prelievo per il Signore, una decima della decima. Il vostro prelievo vi sarà contato come il frumento dell'aia e il pieno del pressoio. Così avrete anche voi un prelievo per il Signore di tutte le vostre decime che avrete preso dai figli di Israele, e di quelle darete il prelievo del Signore al sacerdote Aronne. Da tutto quanto vi si darà, detrarrete il prelievo per il Signore. Di quanto vi sarà di meglio, preleverete quello che dovete consacrare. Dirai a loro, quando ne preleverete il meglio, il resto ai Leviti sarà contato come prodotto dell'aia e come prodotto del pressoio. Ne mangerete in ogni luogo, voi e la vostra casa, perché è un salario per voi, in cambio del vostro lavoro nella tenda del convegno. Non porterete perciò peccato nel vostro prelievo della parte migliore, non profanerete le cose sante dei figli di Israele e non morirete.